Hai già deciso che problemi hai? Hai già deciso come ti vestirai? È che non ti riesco a dire no. Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no. Siediti qui un momento, proverò. Ehi, ragazzina, cosa vuoi? Sai che non ci siamo solo noi. Apri gli occhi adesso, se no poi vedrai. Se tardi un attimo ti pentirai. Hai già capito, chissà quante cose sai. Hai già deciso da grande che farai, nei sogni trovi tante verità. Per te si aggiusta tutto, si aggiusterà. E ragazzina, cosa vuoi? Sai che non ci siamo solo noi. Apri gli occhi adesso, se no poi vedrai. Se tardi un attimo ti pentirai. Se mamma poi si sveglia, se mamma...